24 mattino di Alessandro Milan. Ma Napolitano è legittimato a dire qualcosa? Napolitano è stato eletto Presidente della Repubblica con questo Parlamento incostituzionale. Napolitano è incostituzionale come il suo Parlamento che lo ha eletto. Non ci sono parole, quindi non accetto i moniti Napolitano. Ma dove era scomparso? Ve lo ricordate? Adesso il quiz. Chi era questa voce? Chi era? Vito Crimi! Vito Crimi! Quello del Movimento 5 Stelle, il primo capogruppo, l'unico che si ricordi veramente, no? Vito Crimi, l'avete sentito nei confronti di Giorgio Napolitano? Ma chi l'ha eletto? Ma quando è stato eletto? Ma è legittimato Giorgio Napolitano? Va bene, buongiorno cari ascoltatori, sono le 6:30 minuti e questo è 24 mattino, siamo qui, siamo pronti, dai, lo schema Allegri è sempre più pressante, dai, dai, dai, ancora 4, sveglia alle 5 ed è Natale, dai, dai, che si dorme poco ma va bene così. E allora, cari ascoltatori, siamo qui. Siamo con Miriam Lucchetti, come sempre in redazione. Siamo con il nostro Carmelo Lauricella oggi in regia, Da Pietro La Corte, Carmelo Lauricella, Alpino. Ma cosa avete fatto all'Alpino? Non mi fanno cenno come dire via, c'è andato. Ma no, mica l'avrete licenziato l'Alpino. Paola Saluzzi, ci hanno licenziato l'Alpino. L'Alpino, prima mi sono fatto una chiacchierata con Miriam, ma no, l'Alpino farà un altro turno, Carmelo, benvenuto. Ah, ma licenziamo così le persone? Ma non si fa. Ma no, no, no. Era incostituzionale l'Alpino. Incostituzionale l'Alpino, ecco, non lo so. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie. Però, quasi Natale. Vuoi aprire tu il Parlamento oggi? Vuoi aprirlo tu? Dai. Dai, apriamo il Parlamento. Forza, oh, forza, dai. Su, su. Dai, dai, dai, dai. Dai. Dai, dai. Allora, saluto anche il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Luca, buongiorno. Buongiorno. Dai, che buongiorno, poi è Natale. Direttore. Non vi rompo più le palle alle 6:30 per un po' di tempo. Dai, dai. Quello è di Natale. Sì, veramente. Sì, chiaro, le palle di Natale, ovviamente, parlo di questo. Allora, puoi fare il turno con l'Alpino? Puoi fare il turno con l'Alpino, sì, puoi, assolutamente. Credo che sia turno serale, non lo so. Allora, Enrico Letta si è detto certo, purtroppo non c'è l'audio perché ha incontrato i dipendenti di Palazzo Chigi e quindi non avevamo infiltrati, ma a proposito di Natale ha detto mangerò il panettone. Mamma mia, queste cose portano di una sfortuna per chi crede alla sfortuna, ma come insegni tu Paola Saluzzi, essere superstiziosi, ma no, ma per il produttore di panettone portano bene, ma sì, voglio dire, però essere superstiziosi poi porta sfiga e quindi lui si è lanciato in questa. No, non ci credo alla sfortuna, no, forza. Quindi secondo te mangerà il panettone? Se lui è sicuro, sì, lo mangerà. E vabbè, ma fai un pronostico, azzardati, lanciati. Ma sì, lo mangerà. Ma sì. Andiamo di panettone parlamentare e quasi normale il prossimo anno. Non so se con i canditi e l'uvetta, ma forse sarà un panettone un po' più povero, ma... No, ma tra l'altro ha detto, attenzione, mangerò il panettone, infatti è la cosa più... Mangerò il panettone anche l'anno prossimo, Cioè, questo non è... Ma io di quello parlavo. L'anno prossimo. No, certo. L'anno prossimo. Oh, ma se è lanciato... Che pronostico è? No, infatti. Luca Dini, tu che dici? Mangerà il panettone l'anno prossimo e quindi starà un altro anno Enrico Letta? Lo mangerà sicuramente. Ecco. Dove? Non lo so. No, infatti. Va bene, sì. Un monumento equestre allo stile british. Certo, sì, sì. Lunghissima vita ai panettoni e a Enrico Letta, certo. Questo certamente. Anche noi lo mangeremo. Anche noi, tutti mangeremo il panettone. No, però tu dubiti che lo possa mangiare a Palazzo Chigi, diciamo, per l'anno prossimo. Ma non lo so, mi sembra, cioè, di questi tempi mi sembra veramente un pronostico audace. Ecco, abbastanza diciamo. Azzardato, sì, si è lanciato. Ma per chiunque di noi, cioè, veramente io è difficile anche pensare dove mangeremo l'uovo di Pasqua e tutto il resto. Sì, abbastanza. Beh, però oddio, se pensate a come io avessi azzeccato la data della nuova legge elettorale. Ah, certo, è vero, tu avevi detto entro 30 giorni, farabutta. È meglio che a me non chiediate pronostici. Farabutta, è vero, io continuo imperterrito a contare, siamo nel pieno della 33esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Però pare, così almeno titola in prima pagina del Corriere, che gli ambasciatori si siano incontrati. Il numero due di Renzi, diciamo, quello che era vice sindaco, Nardella, ha bevuto un caffè con Brunetta. Ah, ulala. E quindi qualcosa avranno deciso. D'altronde 33, gli anni di Cristo, insomma, esatto. Un miracolo ci vuole. Eppur si muove un caffè tra Nardella e Brunetta, capito Lucadini? Lentamente, ma ci stiamo avvicinando. È fatta. Mangeremo il panettone. Oh, allora voglio subito buttare la questione dei vari tiferi in politica, perché insomma, chi mangerà il panettone, ma ognuno a casa propria, ma cosa avete combinato? No, voi non avete combinato niente, caro direttore, avete certificato quello che è partito in una, prima in un'intervista a Libero. E poi voi siete andati a chiedere conferma a Cécile Kyenge, il ministro, per fare un po' di gossip, ma non è solo gossip, insomma, la politica passa anche attraverso questo. E che succede? Si separa? Si separa dal marito? Diciamo che forse non mangeranno il panettone nello stesso posto. Non mangeranno il panettone? Ma dov'è l'intervista? Qua mio marito mi ha fatto un colpo basso. Che ha combinato? Beh, sai, lui ha fatto quell'intervista Libero, diciamo, bella pesante, dove... La cosa più carina che ha detto di lei è non ha capacità gestionali, eccetera. E lei giustamente dice, cioè, al di là di tutto, insomma, non è stato bello. Lei lo riconduce molto al fatto che quando sei una che arriva in certe posizioni, non sempre il marito è contento. Ecco, questo è un aspetto interessante. Cioè, l'ha messa su questo piano, ha detto: quando a casa i soldi li porta la donna, ecco che nascono i problemi e non l'uomo. Io trovo che abbia ragione, perché se fosse diversamente, quelle cose gli avrebbe detto lei, forse, e non a Libero, ecco. Però è interessante questa lettura, cara Paola Saluzzi. Siamo ancora a questo livello, cioè siamo assolutamente a questo livello. Cioè, se fa successo la donna, l'uomo cos'è? Invidioso? Il livello purtroppo non cambierà mai, nel senso che o si trovano uomini tifosi, visto che sto parlando a un super tifoso del Milan, voglio dire proprio i tifosi, e per tifoso intendo dire quella persona che fa curva per te, che ti incita a vincere e a continuare, e che ti sa anche criticare, ma ti sa criticare per migliorarti, oppure se cadi nelle mani del, non so se accusarli o meno, ma dell'uomo invidioso. Dillo, maschilista, la parola. No, non è maschilismo, Alessandro, non è maschilismo, è invidia, che è ancora peggio. Invidia. Perché il maschilismo sarebbe una caratteristica che lo inserirebbe in una categoria. Invece l'uomo invidioso è malato di una malattia che non conosce farmaco per essere curata. Cioè, tu gli potrai dare il centro del tuo cuore, il centro del mondo, ti picchierai per fare mille cose, per tornare a casa la sera e dire comunque quello che ho fatto l'ho fatto con te e per te. Ma e lui è verde. È verde. Guarda, di invidia. Non c'è storia. Lui può essere anche l'amministratore delegato della Chrysler o non so che cosa. Sì. Può essere anche il presidente degli Stati Uniti. Adesso non andiamo a cercare il presidente. Ma se è invidioso, non c'è niente da fare. Ma allora mi arriva un SMS. No, mi arriva un SMS e dice: è un classico, molti mariti non tollerano il successo della moglie. Però, caro Lucadini, voi siete andati, insomma, doveva essere un'intervista, mi sembra di capire, così, per celebrare il Natale dal ministro Cécile Kyenge con le figlie. Era nata così. Poi il giorno prima che andassimo è successa questa cosa, insomma, quindi non l'abbiamo cercata noi, però devo dire, sono d'accordissimo con Paola. Più che invidia è proprio una, come chiamarla, una piccolezza micidiale. Sì, io devo dire che è veramente piccolo. Anch'io... Però l'invidia, direttore, è quello, scusa Alessandro, l'invidia è quello, cioè è proprio, esatto, è una piccolezza, è proprio soffrire del bene che sta capitando all'altra. Maltrattare il buono che sta facendo l'altra persona, e badate, vale anche per gli uomini, perché se un uomo trova una donna invidiosa della sua della sua buona riuscita. È lo stesso tipo in comunque, questo non c'è di no, ma Madonna. Chiariamo, stiamo parlando di questa intervista molto dura che il marito di Cecil Kyeng ha fatto a Libero qualche giorno fa, criticando pubblicamente la moglie, il ministro, e oggi su Vanity Fair, insomma, alla domanda "il matrimonio è ancora in piedi", come risponde Cecil Kyeng? Al momento sì, anche perché ci sono le figlie, ma presto le conseguenze delle dichiarazioni di mio marito si vedranno a tempo debito. E vabbè, Luca Dini, è un annuncio di separazione via stampa, questo qui mi sembra di poter dire, o no? Beh, diciamo che se io fossi lei, calci nel sedere sono arrivati. I calci nel sedere, addirittura, eccola lì Paola, saluto col cuore. Adoro Luca Dini, caro. Non si può dire una cosa del genere. Vabbè. Che uomo, che ragazzo. Allora, no, fatemi fare una capriola per parlare di un tema, semplicemente lo faccio per accomunare la vicenda di che sicuramente è cara per la tematica di lavoro a Cecil Kyeng. Le avete viste le immagini che ieri sono andate al TG2 di questi migranti nel centro di Lampedusa che vengono denudati e vengono disinfettati? Oggi sui giornali scoppia la polemica, Letta dice "faremo pagare i colpevoli". È un filmato che è stato fatto da uno dei migranti, insomma, che tra l'altro dice "da quando l'ho fatto avere al TG2 mi hanno tolto il cibo, ci sono ritorsioni". Qua non so che dire, perché il responsabile del centro, intervistato dal Corriere della Sera, dice "ma no, ma guardate che la procedura si fa così, ci sono le malattie, bisogna appunto nebulizzare questa sostanza e quindi si mettono lì tutti nudi e si nebulizza". Insomma, non lo so, voi le avete viste, vi aveva fatto... Sì, certo. Che considerazioni si possono fare, Luca? Tu che hai pensato quando hai visto quella scena? Io purtroppo non mi sono affatto sorpreso, nel senso che ci piace dimenticare che questa cosa succede nel nostro cortile praticamente, e ci piace pensare che succede in modo diverso, però voglio dire, è l'ennesimo capitolo di una cosa disumana che però è già iniziata, si è già sviluppata, l'abbiamo vista, cioè quando uno viene ripescato in quelle condizioni, diciamo che l'umanità si è persa molto tempo prima, molto prima. E credo che purtroppo anche chi sta lì fatalmente registri questa cosa come una... cioè, come avere a che fare non più con esseri umani, ma come fossero animali, numeri, non lo so. Cioè, adesso tra l'altro c'è tutto questo sdegno, ma perché non si sanno, voglio dire, Boldrini dice "non sono metodi da paese civile", Letta che "puniremo i colpevoli", ma che voglio dire, ma non si sa quello che succede, cioè sempre così. Paola Saluzzi, se non c'è una denuncia pubblica, che non si... cosa sono? Zone extraterritoriali, non sappiamo succede all'interno di questi centri, ma come è possibile questa cosa? Si scandalizza sempre dopo. Allora andare a ricercare con attenzione e con cura, senza dire preventivamente "salve, si viene a fare visita", andare a capire come funzioni, perché questo stupore poi che è motivato da una parte, perché anche questo stupore non deve essere imbarazzo, allora mettiamola così, può essere stupore perché io posso non sapere, però l'imbarazzo non si sopporta, allora andare da una parte a far parlare i diretti protagonisti dall'una e dall'altra parte, attenzione, sì, dall'una e dall'altra parte, analizzare e poi fare, come dice una persona saggia che conosco, se non sai montare il mobile dell'IKEA, lascialo lì, poi vai a dormire, la mattina dopo ti alzi e riuscirai a montarlo, nel senso, fai calare le polemiche, ma dopo le polemiche sii presente. Sì, infatti. No, e dopo le polemiche che devi essere presente. No, perché sennò tra l'altro mi immagino già dichiarazioni, 2 giorni, poi non succede niente. E poi come al solito non succede niente. Allora devo dire che avete scatenato un dibattito su questo. Allora, un ascoltatore ci scrive: "cara Paola, l'invidia delle donne può anche essere peggiore, io ho un'azienda ho un'azienda e durante questi anni di crisi siamo riusciti a sopravvivere, ma la cosa più dura è mia moglie, invidiosa di tutto e di tutti". Mentre... come lo capisco. Vabbè. Mentre c'è un ascoltatore, Roberto, ma come si fa a scrivere una cosa del genere? Io farei volentieri a cambio con mia moglie. Ma cosa vuol dire? Non ho capito in che senso. Cioè, se a cambio con mia moglie, non lo so. Non lo so se. Roberto, caro Roberto, vabbè, boh, non lo so, ve la cedo così. Allora, comunque, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi entriamo con la segreteria telefonica, poi vi faremo sentire anche un Berlusconi che dice non mi ricandido, l'ha detto ieri sera, grande esclusiva qui. 24 mattino. Secondo me questi forconi hanno inforcato Grillo, perché se Beppe Grillo non è riuscito a canalizzare questa rabbia, mi sa che lui abbia fallito il suo progetto politico. Attenti, attenti, birbandelli, non sottovalutate l'urlo di rabbia e di dolore del popolo, perché saranno guai, guai seri. Che bello, il signor Letta ha eliminato il finanziamento pubblico ai partiti. Sì, sto cazzo, nel 2017. Milan, ti faccio una domanda, vediamo se sai rispondermi. Nel 1750, durante la rivoluzione francese, chi è che aveva ragione, i governanti o i forcaioli? No, stavo facendo una riflessione sul fatto lì della legge del finanziamento pubblico ai partiti, che praticamente adesso vogliono introdurre il 2 per 1000. Io lo interpreto così: ogni due politici sono 1000 persone che li prendono a calci in culo, perché è questo che si meritano. Allora, ogni due politici, 1000 che li prendono a calci in culo. Questa è la mia percentuale. Mascalzoni delinquenti, i soldi ai partiti in 3 anni, quando devono aumentare le tasse, pochi minuti. Mascalzoni delinquenti, una cacarella a musica gli deve prendere, ad Alfano, a Letta e compagni. Cara Paola, aiuto, di qualcosa, aiuto, no, di qualcosa, no, a tutti, scusate, prego. Non è. No, no, oggi aiuto, vabbè. No, sto ridendo. No, ridiamo, però, ridiamo, no, perché non sei andata. Non l'avevo mai sentita. È andata di traverso l'acqua e quindi stiamo sorridendo. Poi quando Luca Dini, perché c'è andata di traverso. È la musica. La spremuta d'arancia, no? Ma anche il 2 per 1000, mamma mia. No, il 2 per 1000 è drammatico perché vuol dire fare di tutte le erbe un fascio, e questo è, no, no, e oggi carità. Essere politico è pericoloso. No, quasi, ma ecco. Per carità, no, e vabbè, mettiamola, ma quella cacarella musica, siamo sinceri. Allora, un Oscar a questo disco. Sentiamo. Basta. Richiamati all'ordine subito. Silvio Berlusconi dal sito quicomo.it. Oh, ieri era a Como, sentite, eh? Cioè no, non è che era a Como, ha telefonato a Como, adesso non è che va a Como, ha telefonato a Como, sentite. Ecco, noi cercheremo di farlo in queste prossime elezioni. Io non sarò in campo perché sono sicuro che questa sentenza scandalosa e diversiva verrà annullata o dalla divisione in Italia o dalla Corte del Lussemburgo a cui ci siamo rivolti, però i tempi sono lunghi, quindi io non credo che per le prossime elezioni, che saranno non molto lontano da oggi, io non credo che avrò avuto modo di ribaltare questa situazione. Allora, non credo che riuscirò a candidarmi, questo in pratica ha detto. Vabbè, l'audio era un po' così, la telefonata, ma caro Luca Dini, basta. Berlusconi forse per la prima volta dice non ce la farò a ricandidarmi, ma chi lo sa. Diciamo ancora qui a parlare di Berlusconi. Infatti, no, mi sembra realistico per una volta, insomma. Credo anch'io che non ci riuscirà. Non ci riuscirà, ma staremo a vedere. Ma in realtà, Paola, ti voglio chiedere questo: ma tu credi davvero a questa nuova generazione di quarantenni che arriva? C'è Salvini, c'è Renzi, c'è Alfano, no? Almeno dal punto di vista generazionale, sono questi nuovi quarantenni che avanzano. Perché no? Bisogna dargli, soprattutto, per chi vuole, fiducia e stare a guardare, è una nuova partita, tu mi insegni, voi mi insegnate che le nuove squadre si formano e alla titubanza iniziale, che può anche essere ma ci possiamo fidare o ci dobbiamo affidare, deve poi corrispondere il conto alla rovescia, nel senso ti do 90 minuti per giocare e vediamo il risultato alla fine. Ma dobbiamo farlo, anzi forse il fatto che Berlusconi dica non so, non credo che potrò ricandidarmi, sicuramente imporrà prima o poi, e sarà un'altra pagina tutta da seguire, chi potrà essere nuovo all'interno della sua Forza Italia, cioè la persona che prenda le redini o comunque che prenda il testimone di quello che è stato lui per questi 20 anni. Chi però? Crediamoci, poi chi vuole crede nella Lega, chi vuole in Renzi. Sì, vabbè, certo, questo sì, ma l'idea del cambiamento, chi proprio non gliela fa ancora ad accettare? Io me lo immagino lì con la sua birretta, no? Che non riesce ad accettare questa sconfitta, è Bersani. Bersani, sentite Bersani, Bersani, lui, la sua birra e Renzi. Questa impostazione non ce l'hanno fatta, ma è questo, io contesto Renzi, perché è... Nessuno di noi sarebbe lì dov'è se non ci fosse stato qualcuno che ha aperto una strada. Senza il PD dove sarebbe Renzi? Caro Luca Dini, senza il PD, io me lo vedo lì con la birretta. Volpe l'uva. La volpe l'uva, sì, con la birretta. Vabbè. Allora, io qua a Vanity Fair ne abbiamo già parlato per la vicenda, ma ne abbiamo parlato fino adesso per la vicenda Kienghe. Vogliamo sapere. Puoi rifarti gli occhi, cara Paola Saluzzi, c'è Leonardo DiCaprio in prima parte. Oh, molto bene. Eravamo indecisi tra lui e il marito di Cecil Kyenge. Devo dire, è stato un dibattito serrato in redazione e poi hanno deciso, ma dai, sì. E per pochi voti ha vinto Leonardo DiCaprio. Per pochi voti Leonardo DiCaprio ha conquistato la copertina battendo sul ragazzo, filo di lana. Ragazzo bello e gentile, l'ho conosciuto. Quindi come l'hai conosciuto? L'ho conosciuto in una, quando girava Gangs of New York a Roma con Martin Scorsese. E come hai fatto? Di una cena? Come ho fatto? Ma non ho capito. Cioè ti sei imbucata in una cena? Ma no, la presentavo la serata. Presentavo Leonardo Caro DiCaprio! Leonardo. Attenzione! Nella quale c'era Leonardo DiCaprio. Un ragazzo alto, con la faccia da bambino, gentile, cortese, garbato, ma devo dire la grande emozione era avere accanto Martin Scorsese, lo so, però una cinesi da frega di DiCaprio. Però lì che dicevo, vabbè. Scorsese, sto parlando con Martin Scorsese. Ah. Però lui un bel poi ti sei girato e ha detto, ma chi è questo Leonardo? Ma che vuoi questo Leonardo? Ma no, ma adesso dai, vi devo salutare, vi faccio buone vacanze, buone feste, tutto, buon Natale, devo chiudere, ci ritroviamo nel 2014 se vorrete mangiare il panettone con noi. Hai il talento dei grandi chef? E allora dimostralo al gastronauta. Invia le tue ricette, basate ogni settimana su un ingrediente diverso a gastronauta@radio24.it. L'ingrediente di questa settimana è il cappone. Gli autori riceveranno una Magnum Franciacorta. Radio 24 e Franciacorta ti invitano a seguire il gastronauta ogni sabato alle 11. Info su radio24.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, forza, dai, siamo pronti anche oggi. Vi ricordo che oggi avremo ospite il ministro Anna Maria Cancellieri, ministro della giustizia, è sicuramente il personaggio del giorno alle 8:15 perché c'è questo decreto che in parte svuoterà le carceri, tra poco lo vedremo in rassegna stampa, non è un indulto, non chiamatelo indulto, ha detto ieri in conferenza stampa, ci spiegherà perché alle 8:15. E da lì partiremo, e questo per quel che riguarda gli ospiti, poi parleremo ovviamente di altri temi. State con noi ovviamente e andiamo subito a sfogliare i quotidiani che troviamo in edicola. È mercoledì 18 dicembre, intanto i titoli, oggi non c'è un titolo che si impone su tutti, ogni giornale fa la propria scelta, Il Sole 24 Ore, svuotato il fondo Cuneo, stop su casa e Consob, questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda della casa,

Staremo a vedere, siamo al momento però conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, al momento della carta costa, e vince oggi Libero, Libero con Gianluca Veneziani che parla del trionfo della natività, soprattutto della rivincita del presepe. Io lo sapevo, per carità, lunga vita al presepe che ha 790 anni. Fa sapere il quotidiano Libero, 790 anni, il primo realizzato da San Francesco nel 1223. Ma per carità, non voglio apparire irriverente, non voglio apparire irriverente, anch'io a casa ho fatto il presepe, ma chi se ne frega, scriverne mezza pagina su Libero, fate il vostro presepe a casa e non scrivetene sui giornali, perché la carta costa. Ci ritroviamo alle 8.15 col ministro Anna Maria Cancellieri. Mattino. Eccoci, sono le 8:19, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, ieri il governo ha approvato un decreto per svuotare in parte le carceri italiane. Sapete che il problema dell'affollamento delle carceri, il sovraffollamento, è un problema grave, perché anche in Europa ci sono tante condanne nei confronti dell'Italia su questo tema. Ne parliamo in diretta con il ministro alla giustizia Anna Maria Cancellieri. Grazie per essere con noi, ministro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Senta, lei ha già detto non chiamatelo indulto, ma sa che la gente questo tema lo vede come un qualcosa di impopolare. Perché non è un indulto? Ma intanto perché non c'è nessun automatismo, cioè nessuno esce dal carcere se non lo ha deciso il giudice, quindi non ci sono fatti automatici. Poi perché tocca due particolari categorie di persone, che sono i tossicodipendenti e gli stranieri, oltre ad un'altra questione che dirò dopo, che non è che vengono rimessi in circolazione, ma vengono sottoposti i primi ad una cura, quindi vengono mandati nei centri di recupero per i tossicodipendenti, e i secondi tornano a casa loro, cioè vengono espulsi e rimandati al paese d'origine. Questo per esempio potrebbe essere una chiave vera, perché non si fanno tanti accordi con i paesi d'origine e si sconta la pena là? Gli accordi li stiamo tentando di fare, ma sono molto complessi. Questo ci consente di farlo senza accordo, ci consente di farlo perché la legge lo prevede, purché il detenuto sia negli ultimi 2 anni di pena da espiare e sia stato identificato, che questo è il vero nodo, il vero problema. C'è l'identificazione, perché sì, spesso non sappiamo chi sono. C'è un tema, un dibattito sui numeri, lei ha detto credo 1700 fruiranno di questa cosa. Oggi sì, il Sole parla di potenziali fruitori 7000, ci aiuti a far chiarezza? No, i 1700 sono quelli che invece hanno la liberazione anticipata, perché abbiamo fatto anche una norma transitoria, sì, che dura soltanto 2 anni, che aumenta la possibilità di liberazione anticipata a quei detenuti che abbiano tenuto una buona condotta. Qui vengono abbonati 75 giorni invece dei 45 previsti fino ad ora, ma soltanto per 2 anni, e lì sono previsti 1700. Sono usciti a scaglioni e sono persone che comunque sarebbero uscite dal carcere, ma anticipano la loro uscita di qualche tempo. E poi i 7000 è un dato che viene dato complessivamente, ma è un dato ipotetico che potrebbe anche cambiare, perché noi non siamo in grado ora di dire quanti saranno i tossicodipendenti che verranno sottoposti. Cioè potrebbero essere di più o di meno. Esatto, noi sappiamo quanti sono i detenuti che riusciamo a identificare e espellere. E quindi i 7000 poi l'agganciano anche ai circa 4000, ma sono un po' meno, quelli che sono usciti con le norme precedenti. Però lei si rende conto, ministro, che è una misura molto impopolare? Cioè anche il premier Letta ha detto non è un qualcosa che va a ledere la sicurezza dei cittadini, ma molti cittadini la vedono così, insomma, gente che esce dal carcere. Lei però cosa risponde? Va a curarsi in un centro di recupero per tossicodipendenti, e quindi sono persone che vengono riportate alla salute. Spesso sono giovani che nel carcere con la tossicodipendenza perdono la loro vita definitivamente, in un centro possono ritrovare se stessi, quindi, e non sono in circolazione, voglio dire, sono persone che vanno curate, e gli altri sono persone che tornano a casa loro. La liberazione anticipata è l'unica differenza, sono questi 1700, sono persone che comunque sarebbero uscite. Escono un po' prima, per cui non so, la Padania che titola oggi Letta il garante di Caino, lei come replica? No, no, Letta è il garante di tutti i cittadini, nel senso che forse fa riferimento al garante dei detenuti. Sì, certo. E sono delle persone che hanno diritto ad essere tutelate come persone. A parte che è un provvedimento che ci è stato chiesto con forza dall'Europa, noi entro marzo dovevamo nominare un garante contro la tortura, quindi questo è un primo passo di un adempimento europeo, ma è comunque una persona che garantisce voce a chi voce non ha. Però, ministro, sono persone che non riescono a far sentire i loro diritti, e sono persone comunque, non parliamo di... Ma questo certamente. Le chiedo questo, ministro Cancellieri, oggi il Corriere della Sera fa un fondo sulla questione del braccialetto elettronico, che per tutti era un esperimento fallito miseramente, anche con il dispendio economico enorme. Perché è stato riproposto? Ma guardi, intanto è sempre efficiente, cioè non è che non esisteva o è stato ritirato fuori, e si è cercato di dare la possibilità di utilizzarlo di più. È nel nostro paese, non so per quale motivo, c'è sempre stata una certa diffidenza verso il braccialetto elettronico. In altri paesi europei viene usato moltissimo, in Inghilterra c'è un uso incredibile, in Francia, in Spagna, un po' in tutta Europa viene molto usato perché dà sicurezza alle forze dell'ordine, perché sanno dov'è la persona senza dover rincorrere con me. Sì, ma qui... C'è forse un timore. In Italia viene usato molto a Campobasso, se non sbaglio, dove c'è un magistrato che ci crede. A Campobasso? Quanti ne utilizza Campobasso? Pochissimi, sono pochissimi che lo usano. No, perché la cosa è da 10 anni che funziona. Sì, ma il vice capo della polizia, Cirillo, disse a comprarli da Bulgari, sì, certo, questi braccialetti costavano... No, ma meno. Ha perfettamente ragione, perché sono 10 anni che lo Stato spende una cifra considerevole, perché la piattaforma di controllo ha dei costi, al di là del costo del singolo braccialetto, ed è un costo che infatti qui bisogna decidere una volta per tutti se li vogliamo usare o no. E secondo lei sono efficaci? Cioè non... Ma guardi, non secondo me, e intanto anche questo Strasburgo ci dice: usate strumenti elettronici di controllo. Quindi anche qui abbiamo un'indicazione europea chiara e forte, in tutta Europa lo si fa. Proviamoci, se non saranno necessari bisogna dire con forza che in Italia i braccialetti non vanno, ma qualcuno dovrà assumersi le responsabilità. Senta, ministro, lei è stato anche ministro dell'interno, non è che voglio farle questo ruolo, ma ha visto le immagini del centro di Lampedusa? Sì, sì. Che effetto le hanno prodotto? Guardi, sono cose che fanno star male. Fanno star male perché il problema delle infezioni, eccetera, esiste. E certo, bisogna vedere, credo che so che il Presidente ha chiesto proprio un'inchiesta sul fatto, e fanno veramente immagini molto forti. Ma dalle immagini, secondo lei, perché oggi il responsabile della cooperativa si difende sul Corriere, dice è la procedura, non abbiamo fatto, quelle immagini distorcono la realtà. Lei può darsi, bisogna fare le cose, poi viste, è come quando si prende una parte di un insieme. Bisogna vedere tutta la procedura, cosa comporta, come sono state eseguite. Il frammento dell'immagine forse non può dare l'idea completa. Io credo che le cose, prima di giudicarle, dobbiamo conoscere tutte. Quindi verrà fatta un'inchiesta. Sì, sì, a proposito di rapporti col ministro dell'interno, tutti i giornali raccontano che c'è stata una disfida politica mica male ieri in Consiglio dei Ministri. Alfano voleva non far passare questo decreto sul carcere, è vero? No, è perché naturalmente abbiamo ognuno poi deve seguire i propri problemi, e lui voleva essere certo che non ci fossero degli aggravi importanti per le forze dell'ordine, quindi chiarito questo, soprattutto per il fatto che riguardava l'identificazione degli stranieri, eccetera, ma una volta che si è visto che non portava situazioni di disagio, non ci sono stati problemi. Non ci sono stati problemi. No, assolutamente. Ma non è neanche venuto in conferenza stampa, però qualcuno ha fatto notare la sua assenza. Beh, quello perché comunque era un provvedimento solo esclusivamente in giustizia, e quindi no, assolutamente. Non ci sono problemi. Vabbè, no, i giornali raccontano cose diverse, però insomma questa è. No, vabbè, poi sa, naturalmente ognuno vede le cose, ma comunque io per quello che ho vissuto io, assolutamente. Senta, ministro Cancellieri, Matteo Renzi non le vuole molto bene, sa che ancora oggi i giornali dicono punta al rimpasto di governo, primo obiettivo tra gli altri Anna Maria Cancellieri per la vicenda Ligresti, ovviamente. Dal punto di vista del rimpasto lei teme qualcosa? Guardi, io di questo non so nulla, anche perché sono cose che appartengono proprio alla politica. Io sono a servizio del Premier finché me lo si chiede, se sarò di nessuno me ne vado, non è un problema. Ma su questa vicenda, adesso sono passati 2 mesi, è la prima volta che lei ne parla pubblicamente, lei davvero pensa di non avere sbagliato nulla? Guardi, ritorniamo sul vecchio tema, c'è stata forse un'imprudenza, può essere stata un'imprudenza perché ho preferito, cioè come ministro forse non dovrebbe lasciarsi andare a sentimenti, ma comunque non c'era nulla di regolare, nulla di illecito, se non che l'espressione di solidarietà a una persona che peraltro è una persona, sì, in compagna di una persona che si è in carcere, una persona assolutamente, ecco, senza nessun precedente, senza nulla. Quindi questo può essere stato, e per il resto guardi, mi creda, assolutamente, assolutamente nulla, nulla, nulla. Nulla, nulla. Quindi l'ipotesi delle sue dimissioni, quanto è stata concreta? Adesso ce lo può dire? È stata vicina a dimettersi, come raccontava nei giornali? Guardi, io lo dico e lo ripeto, io sono al servizio del mio paese. Finché sarò necessario, mi chiederanno di essere al servizio del paese, lo farò e lo faccio con passione e con entusiasmo. Nel momento in cui mi si chiedesse di farmi da parte, io non ho nessun problema. Le ultime due cose sono queste: ma ha avuto rapporti allora con Giulia Ligresti, cioè l'ha sentita? Io non ho mai avuto rapporti con Giulia Ligresti. E con la famiglia invece? Ma nemmeno, soltanto quell'unica telefonata, che era soltanto per portare a conoscenza di una struttura che da me dipende e di mettere in evidenza il rischio di un eventuale suicidio. Ma lei sa quanti sono i casi che abbiamo nel carcere? Ho soltanto detto state attenti, ma il carcere è peraltro già molto attento e quindi è stato anche inutile. Beh, però col fratello di Ligresti ha rapporti, ma quello sì, ma il fratello di Ligresti è una persona assolutamente incensurata. Cioè qui vogliamo andare a cercare, non lo so, voglio dire, è una persona che non ha nemmeno rapporti, tra l'altro, quindi stiamo parlando del nulla, mi crede? Del nulla. L'ultima questione: lei da prefetto teme quello che può succedere oggi a Roma con i cosiddetti forconi? Beh, il momento è molto delicato, il momento è molto molto delicato, occorre vigilare molto che non ci siano infiltrazioni o strumentalizzazioni, è un momento complesso per il paese, perché il paese sta passando un momento di grande difficoltà. Però ecco, io sono convinta che la professionalità delle nostre forze dell'ordine e anche la consapevolezza di tutta la gente che il momento è delicato, ma che dobbiamo essere molto, molto forti, ecco, sono momenti in cui occorre molta attenzione. Ma prevarrà, insomma, è ottimista, insomma, prevarrà. Sì, io sono ottimista per natura. Per natura, va bene. La ringrazio, buona giornata Ministro, grazie per essere stata con noi. E il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri, che insomma ci ha raccontato non solo del provvedimento del carcere, ma anche di tutte le vicende, anche le polemiche personali che l'hanno riguardata, è la prima volta che parlava pubblicamente. Noi dopo la pubblicità di che parliamo? Invece di una vicenda che riguarda alcune famiglie, non tantissime famiglie, se volete una cinquantina di famiglie, ma ci sono degli italiani che sono da un mese, 2 mesi, anche di più, da diversi giorni, bloccati nella Repubblica Democratica del Congo, dunque in Africa. Perché? Perché sono andati lì per ultimare le pratiche di adozione internazionale, un tema che riguarda anche molti italiani. Però poi non hanno in nulla osta per uscire dal paese con i bambini che sono stati dati loro come figli e si sono dati loro in adozione. Ci collegheremo con uno di loro, cercheremo di capire che cosa lo Stato italiano sta facendo, se può fare qualcosa, se è responsabile di questa vicenda, per sbloccare la vicenda di questi italiani che sono stati un po' raccontati dai giornali ma un po' anche dimenticati là. È un tema, quello delle adozioni internazionali, peraltro che riguarda migliaia e migliaia di famiglie in Italia. Tra poco. 24 mattino, 8:37 minuti. Allora, la radio è anche un modo per raccontare delle storie, storie di persone, storie di italiani. Magari uno dice: ma perché raccontare la storia di 26 famiglie, 52 persone che sono da tempo, da un po' di mesi nella Repubblica Democratica del Congo? Perché è la loro storia, una storia che tra l'altro sulla quale voglio capire qualcosa di più. di queste famiglie che sono, si trovano a Kinshasa, capitale appunto della Repubblica Democratica del Congo, sono andati lì perché sono genitori adottivi di adozioni internazionali. Uno di questi è Guido Tota, che saluto da Kinshasa. Buongiorno signor Tota, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Ecco, si sente molto bene nonostante la distanza. So che voi, lei è lì con la moglie, voi avete adottato due bambini, una di 6 anni, una bimba di 6 anni e un maschietto di 4. Sì. Siete insieme ad altre famiglie. Siete da quanto tempo lì a Kinshasa? Allora, noi siamo arrivati a Kinshasa il 13 di novembre. Dal 13 di novembre. Quindi sì, più di un mese che siamo qui. E noi siamo con uno dei tre enti che chiaramente sono implicati in questa vicenda, e un gruppo di 8 famiglie dove mi trovo io. Sì. Allora, la vicenda è detta molto rapidamente così: voi avete fatto tutte le pratiche, avete legittimamente adottato dei bambini come le altre famiglie. Sì. Quando però siete arrivati lì, c'è una questione di burocrazia da parte del governo congolese per cui non potete tornare a casa, cioè? Allora, il problema è questo qui: per la legislatura congolese i bambini sono tutti dei effetti nostri, perché esiste una sentenza passata in giudicato del tribunale congolese che li fa nostri figli, hanno il nostro cognome, ma sempre per la legge congolese tutti i minori che escono dal paese devono avere alla fine un timbro di questa polizia, che è una sorta di un organo di polizia che si chiama DGM, Direzione per il controllo della migrazione. Sì. E manca questo timbro perché questa DGM ha eseguito un blocco dal 25 settembre ultimo scorso. Insomma, una banale, che poi non è vicenda, se non fosse con dei risvolti umani, vicenda burocratica che in realtà forse nasconde anche... Esclusivamente una problematica burocratica. Una problematica burocratica. Mi lasci salutare, signor Tota, anche l'avvocato Carlo Rimini, che è un docente di diritto di famiglia a Pavia, è esperto anche di temi di diritto internazionale. Buongiorno, avvocato. Avvocato Rimini, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, intanto Tota, le chiedo questo: voi vi sentite tutelati dallo Stato italiano? Perché sa che credo anche il ministro Kyenge, che tra l'altro ricordiamo è originaria proprio della Repubblica Democratica del Congo, voi in pratica siete partiti un po' allo sbaraglio, cioè non c'era la definitiva autorizzazione del Comitato Adozione Internazionale Italiano a dire ok, c'è tutto l'ok, andate pure a portare i bambini in Italia. Il problema è, diciamo, direi un altro, nel senso che cioè noi famiglie che siamo venuti qui in Congo, ma parlo anche a nome degli altri enti, siamo stati autorizzati dai nostri enti a venire qui nella Repubblica Democratica del Congo, in base al fatto che avevamo tutte le nostre procedure ultimate, anche quelle congolesi ovviamente parlo, ultimate entro il 25 settembre, che era la data del blocco. Quindi gli enti ci hanno da prima bloccato quando è uscito fuori questo blocco, e poi autorizzato. Ci hanno bloccato e poi successivamente autorizzati sulla base di loro informazioni, che hanno però condiviso con la CAI, perché esistono comunicazioni degli enti alla CAI, quindi la CAI era perfettamente a conoscenza. Insomma, diciamo che voi in questa tenaglia vi trovate, come dire, vittime, perché come vivete? Cioè, in questa situazione immagino abbiate tutti anche dei lavori da portare avanti a casa, e che fate? Esattamente, cioè, qualcuno ha utilizzato in questo mese le ferie, ma ora bene o male siamo quasi tutti in aspettativa non retribuita, perché ovviamente non credo che qualcuno venga licenziato dall'oggi al domani, però perlomeno gli tolgono lo stipendio. A chi vi sentite di imputare le maggiori responsabilità e quindi a fare un appello perché la situazione si possa sbloccare? Tota, ascolti, noi desideriamo, come nostro desiderio unico e credo sacrosanto, di tornare in Italia con i nostri bambini. A questo punto noi non vogliamo accusare nessuno, non vogliamo cercare i colpevoli, noi vogliamo soltanto che le persone, le istituzioni che ci dovrebbero tutelare in quanto cittadini italiani e in quanto qui in Congo venuti legalmente e in base ad accordi presi con le autorità congolesi, noi desideriamo, ci appelliamo a che il governo, nella persona della Kyenge o del Presidente Letta o del presidente napoletano esercitino pressioni sulle autorità congolesi, ma parlo diciamo ai massimi livelli, al presidente Kabila, perché è l'unico che può operare uno sblocco. Certo, voglio dire, voi quello che volete banalmente è tornare a casa con i vostri bambini che sono stati, ripeto, e qui vorrei coinvolgere l'avvocato Carlo Rimini, legittimamente a voi affidati come adozione, quindi sono figli vostri, portano il vostro cognome. Avvocato Rimini, non so se insomma questa vicenda poi andrebbe conosciuta nei suoi cavilli anche legali, ma è possibile incappare in questo tipo di problemi come adozione internazionale? La vicenda in realtà è abbastanza chiara dal punto di vista di quello che è successo, perché questo blocco disposto dalle autorità congolesi deriva dal fatto che a un certo punto, la situazione politica in Congo è piuttosto complicata, il governo congolese si è reso conto che nelle pratiche di adozione internazionale venivano in passato commesse delle gravissime irregolarità. A fronte del sospetto di queste gravissime irregolarità, devo dire, adesso io non conosco la situazione del Congo, ma gravissime irregolarità in generale nella gestione delle procedure di adozione internazionale ne vengono commesse in tutto il mondo. Certo. Il Congo per questo ha dichiarato che avrebbe bloccato per un anno, in attesa di ulteriori accertamenti e indagini, tutte le procedure di adozione internazionale. Quindi diciamo c'è un'estrema... A partire dal 25, quindi non è un problema banalmente burocratico. No, è nel chiaro. Senso che il Congo ha detto, viste le irregolarità compiute altro da noi, cioè non da noi italiani, da noi congolesi, viste le irregolarità compiute in passato, visto che non ci danno alcuni paesi, fra i quali non c'era l'Italia, garanzie su come poi vengono trattati i bambini, per un anno blocchiamo tutto. Cioè l'idea è che stanno scontando un'estrema prudenza da parte del governo congolese, legittimata da comportamenti del passato veramente vergognosi, per cui adesso purtroppo questi italiani insomma si trovano in questa situazione un po' kafkiana. Ma che possono fare, avvocato Rimini, oltre a fare pressioni, a cercare di parlarne? Ecco, allora, questa vicenda insegna tantissimo per il futuro, nel senso che le procedure di gestione, la gestione dell'adozione internazionale va fatta con paesi seri, autorevoli. Può essere che il Congo sia un paese di questi in futuro. Certo, questa vicenda è pazzesca, perché loro hanno detto che coloro rispetto ai quali la procedura era compiuta prima di quella data potevano andare in Congo a prendere i bambini, e così queste famiglie sono partite, hanno conosciuto questi bambini, e c'è stato il contatto. Vivono con loro, salvo poi dire no, ma guardate che però in realtà questo si applica a tutte le procedure per cui non sono già partiti i minori. Ma tra l'altro vivono in situazioni, adesso dopo le informazioni sul traffico vorrei tornare da Guido Tota a capire, mi pare di capire che vivano anche in situazioni disagiate, ho letto sui giornali che è scoppiato anche un primo caso di malaria tra appunto i genitori, purtroppo questa è una problematica che in Congo è molto diffusa. Insomma, io vorrei sapere che si può fare, cioè le istituzioni italiane cosa stanno facendo. So che il ministro Chieng si è impegnata, è andata anche a Uno Mattina a dire insomma questa cosa, credo non c'era l'ok ad andare giù, non c'era l'ok definitivo, in qualche modo come dire, non so, colpa loro, no, non voglio pensare tradurla così, però in qualche modo dobbiamo risolvere una situazione di questo genere. Il traffico e poi rientriamo. Eccoci qui alle 8:48 minuti insieme all'avvocato Carlo Rimini, siamo collegati con Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Con noi c'è Guido Tota, rappresentante di un genitore di due bambini di 6 e 4 anni adottati, uno delle 26 famiglie che sono bloccati voi dal 13 novembre. Tota, Kinshasa, come vivete? Cioè in che condizioni? Ci aiuti a capire, siete aiutati da qualcuno, siete supportati, Tota? Sì, però volevo fare una precisazione su quello che ha detto l'avvocato Rimini prima, nel senso che è vero che la DGM ha operato questo blocco per effettuare dei controlli su delle procedure irregolari, però a noi la DGM ci ha più volte detto che l'Italia è di sicuro un modello per il Congo per quanto riguarda il sistema di adozioni e di controllo del posto adottivo. E poi alla Chieng stessa, quando si è recata qui all'inizio di novembre, avevano dato queste rassicurazioni e la rassicurazione di uno sblocco per questa trentina di coppie che potevano venire a prendere i bambini. Ma purtroppo poi evidentemente la situazione è cambiata e questo non dipende né da noi né da decisioni congolesi. Però mi faccia sentire, prima poi glielo richiedo, perché ci ha chiamato un ascoltatore, Massimiliano da Torino, mi dicono la redazione, che ha adottato un bambino dal Congo. È così, Massimiliano? Esattamente. Sì, buongiorno, dica. Buongiorno. Allora, io ho adottato un bambino in Congo, sono stato a Kinshasa nell'aprile del 2009 e all'epoca il Congo aveva bloccato completamente l'emissione di passaporti per chiunque, quindi non solo per i casi di adozione. Io avevo avuto un abbinamento a giugno del 2008 e quindi da settembre 2008 ad aprile 2009 siamo stati in preallarme per partire. Ma è stato poi non ci facevano... È stato difficile poi, insomma, una volta andati in Congo, cioè una situazione del genere che sta vivendo queste famiglie, lei la trova, ci si ritrova, insomma, visto che ha avuto ritrovo per certe cose, non per altre. Allora, intanto, un piccolo inciso, i casi di malaria mi sembra anche strano perché è obbligatoria la profilassi, come la febbre gialla, quindi mi sembra, c'è anche poi chi è un po' avventato e parte senza la profilassi, ma questo è un altro discorso. Sì. Per quanto riguarda le procedure, il Congo è un paese, io ci sono stato molto poco, sono stato una settimana sola, dalle partenze successive hanno iniziato ad allungarsi i tempi, 15 giorni, 20 giorni, però sono tempi abbastanza normali nel caso dell'adozione internazionale. Ma è chiaro, ma credo che Massimiliano anche queste persone volevano stare poco, no? Totta, voi quanto avevate in previsione di stare? A noi avevano prospettato un periodo, una permanenza che doveva essere di massimo tre settimane. Come vivete? In che condizioni vivete? Allora, noi viviamo, volevo fare una precisazione per quello che ha detto il genitore poco fa. Abbiamo fatto tutti la profilassi antimalarica con il malarone, e se qualcuno legge il bugiardino del farmaco si rende conto che la profilassi può essere fatta per 28 giorni continuativi. E quindi siamo tutti quanti al di là del termine del malarone per questo dato farmacologico. Certo. Punto secondo, la persona che ha contratto la malaria l'ha contratta nonostante la terapia col malarone, cosa questa anche ovviamente prevedibile, perché il malarone non ha una copertura del 100%. Quindi volevo fare questa precisazione. Sì. Poi, per quanto riguarda il nostro alloggio, noi le ho detto che sono tante famiglie che ha Kinshasa, noi siamo un gruppo di 8 famiglie e abbiamo una casa, una residenza accanto all'orfanotrofio dove vivono i nostri bambini. Ah, perfetto. Quindi durante il giorno siamo sempre con loro, aiutiamo le suore nelle attività giornaliere, che possa essere la scuolina, insegnargli qualcosa in italiano. E poi di sera state lì. Lavare i bambini, e la sera poi portiamo i nostri bambini in casa con noi e dormono insieme. No, insomma, ma certo, adesso vorrò capire anche come si può sbloccare una situazione del genere. Lì, avvocato Rimini, si può sbloccare solo se si fanno delle pressioni sul governo congolese per fare questa firma. Non mi sembra che ci siano altre possibilità. Il guaio è che sono già state fatte, nel senso che, come diceva il nostro interlocutore laggiù, il ministro Kienge è andato a Kinshasa, ha pattuito con le autorità congolesi che immediatamente sarebbe stato disposto lo sblocco dopo l'accertamento della regolarità di queste procedure italiane già compiute prima del 25 settembre, e poi non è successo nulla. Questo però, ripeto, adesso questa situazione si sbloccherà con grandissima sofferenza per tutti, per questi signori e per i loro bambini. Da questa vicenda dobbiamo trarre insegnamento. Ecco, ma quando dice così vuol dire che lei è anche disposto a dire ci sono dei paesi con i quali dovremmo iniziare a dire ragazzi, questi paesi no. Non sono sufficientemente affidabili per gestire assieme a loro una cosa così delicata come l'abbinamento fra bambini che hanno bisogno di aiuto e i genitori che vogliono aiutarli. Ci sono alcuni paesi che dimostrano nei fatti di non essere sufficientemente affidabili. Poi, per carità, in questo caso il Congo si è mosso in questo modo, però come vediamo non sufficientemente efficiente per risolvere problemi passati. Benissimo, però adesso i casi sono due: o subito dimostrano che per queste 26 famiglie le procedure non hanno, non mostrano pasticci, non ci sono sospetti di nessun tipo. L'Italia è un paese affidabile quanto alla ricezione, quindi immediatamente sbloccano queste 26 famiglie. Se no, signori, basta. Non si farà più con il Congo e con gli altri paesi che sono purtroppo tanti, con cui problemi di questo tipo ne abbiamo. Anticipato la mia domanda, sono tanti, cioè nel senso, e dove sono collocabili geograficamente i paesi più problematici? Questo francamente non ho voglia di dirglielo, perché non voglio creare problemi. Siamo per macro aree, insomma, è più problematico con l'Asia, con l'Africa. Diciamo che i problemi ci sono un po' dappertutto e non solo in Africa, ecco, diciamo così. Guido Tota, voi so che vedete e avete visto varie volte l'ambasciatore, però insomma ci ha detto l'avvocato Rimini, le pressioni sono state fatte, le rassicurazioni al ministro Kyenge erano state date, la situazione è questa. Dunque, cosa può succedere di nuovo? L'ambasciatore che cosa vi dice? Cioè, quanto si potrà protrarre questa situazione? Purtroppo l'ambasciatore sta cercando insomma, attraverso i canali diplomatici, che ovviamente non conosciamo nello specifico, però ci dice più volte che stanno trovando tutte le strade possibili la diplomazia, però sui tempi lui non si è mai potuto pronunciare, tant'è che non lo fanno mai. Insomma, è prima regola degli ambasciatori o comunque di chi fa quel lavoro, mai pronunciarsi sulle possibilità di sblocco. Però l'ultima questione è questa, Guido Tota, poi noi seguiremo la vostra vicenda sperando di non seguirla più, nel senso che ritorniate presto a casa. Non vi sentite anche un po', stati un po' imprudenti, perché su questa autorizzazione c'era, non c'era? No, il problema è questo qui. Allora, in Italia per adottare all'estero bisogna fidarsi a degli enti. Allora, con un ente uno ha un rapporto, ha un contratto di fiduciario. Certo. Per cui se io do il mio mandato per l'adozione ad un ente e questo ente a un certo punto mi dice che posso andare a recarmi, voi vi siete fidati, i bambini, io mi sento autorizzato a farlo, perché rientra nel contratto fiduciario che ho stipulato con l'ente. È chiaro. Sì, si dice non ci sentiamo. È chiaro. Non ci sentiamo imprudenti, ma ci siamo affidati e fidati totalmente. Le parole della Kyenge alla interpellanza parlamentare ci hanno ferito in quel senso, sì. Perché parlare di coppie che avventatamente si sono recate in Congo per loro iniziativa, seguendo una voce, parlare su questi numeri, cioè di 24, 26 coppie, vi ha ferito. Però Tota, guardi, seguiremo questa vicenda, le faccio tanti in bocca al lupo per il momento, mi fermo qui per oggi e vi do appuntamento a domattina alle 6:30.